Power Studio. Are you ready? Io lavoro a Monte Carlo, tu mi ascolti quando parlo. Mangio rosticini, ho maiello, Lamborghini. Nessuna mi dice no, lei conquista il casino. Vado alla roulette dove pieno di soubrette. Una la porto nel privé e le parlo un po' di me. Racconto del mio yacht e la serata si fa hot. In giro in limousine per i locali più in. Poi le regalo un Cartier e lei già pazza di meglio. Dimmi come posso fare a diventare come te. Dimmi come posso fare a vivere come fai te. Tu dimmi come posso fare per diventare un leggendario Dario miliardario. No, tu dimmi come posso fare ad essere bello come te. Tu dimmi come posso fare con mille donne come te. Tu dimmi come posso fare per diventare un leggendario Dario miliardario. E la mia vita è proprio right. Ho comprato quattro night very famous a my party che mi invidiano tutti quanti. Ho detto baby I love you a quante donne non so più. Ma le amo solo a letto. Fa ma catch a lot of sex. Una vita without stress. Welcome baby in my show. Lo si fa finché si può. Ma poi tutto una finzione. Ho l'immaginazione. Rosticino barbecue. E quel sogno non c'è più. Hey guy, do you like my lifestyle? Are you ready to sing with me? Say 1, 2, 3, 4. Tu dimmi come posso fare a diventare come te. Tu dimmi come posso fare a vivere come fai te. Tu dimmi come posso fare per diventare un leggendario Dario miliardario. No, tu dimmi come posso fare ad essere bello come te. Tu dimmi come posso far con mille donne come te. Tu dimmi come posso fare per diventare un leggendario Dario miliardario. No, ha! Rosticino barbecue. E quel sogno non c'è più. Ma tu pensaci un po' su. Fallo col cuore e non col portafogli. Grazie. Hey everybody, can't you see? Life is beautiful when you're free. You don't need a lot of money, fame and power. Only love can get you higher. Lo sai non mi interessa proprio diventare come te. Lo sai non mi interessa proprio vivere come fai te. Lo sai non mi interessa proprio diventare un leggendario Dario miliardario. No, lo sai non mi interessa proprio essere bello come te. Meglio una donna vera che mille false come te. Lo sai non mi interessa proprio diventare un leggendario Dario miliardario. Go, go.